Letture di Radio 24. L'importanza di essere cani. È questo il tema del nuovo saggio di Danilo Mainardi appena uscito nelle librerie. Riconoscere il cane come un membro effettivo della famiglia, comprendere l'intelligenza e la sensibilità dei nostri compagni casalinghi, il responsabilizzare se stessi verso gli animali e verso tutta la società. Sono questi i principali temi del saggio edito da Cairo e recensito sulla Domenicale del Sole 24 Ore di oggi. Il cane, secondo me, è il nuovo saggio di Danilo Mainardi, arrivato nelle librerie in questi giorni ed è un regalo perfetto per chiunque abbia avuto un cane e anche per chi li osserva da lontano. Il famoso etologo scrittore, questa volta, ha deciso di concentrarsi per lo più sui fedeli quattro zampe, sui suoi amatissimi amici, defunti o viventi, come Orso, il golden che ancora lo accompagna per le calli di Venezia, dove i negozianti chiamano lui e la moglie il signore e la signora Orso. Non conoscono il nome della coppia, ma ricordano bene quello del loro simpatico familiare. Sì, familiare, perché Mainardi sostiene che oramai il cane fa parte a tutti gli effetti della famiglia umana e propone di includere i cani di casa nello stato di famiglia, dichiararli all'anagrafe. Infatti questo implicherebbe una maggiore responsabilizzazione dei padroni verso gli altri uomini e soprattutto verso il quadrupede. Si tratterebbe, secondo l'etologo, di sancire una realtà di fatto, esattamente come quando si riconoscono effettivi i matrimoni di fatto, ovvero quelle unioni dove una donna e un uomo, o due donne o due uomini, vivono insieme in comunione di tante cose. Dall'affetto all'affitto, scrive con una battuta, perché Mainardi nel suo libro si batte contro tutti i pregiudizi, per mostrare fino a che punto questi intelligenti animali siano capaci di provare sentimenti e di quanto abbiano bisogno di essere trattati bene, dipendendo fisicamente e affettivamente dai loro padroni senza i quali sono infelici. Ma disapprova invece tutte le forme di umanizzazione. In altre parole, secondo lui, non c'è niente di male, anzi, a considerare il cane come un figlio, ma bisogna rispettare la sua natura di cane. Sbaglia chi è iperprotettivo, chi non lascia il cane libero di fare le proprie esperienze, confrontandosi con altri cani ed esplorando il territorio dove vive. O addirittura chi compra il tapis roulant per cani, sostitutivi della dovuta passeggiata, o chi li spruzza di nauseante, confondente profumo. Poveri loro che in quest'ottica perversa hanno tutto, commenta ironico. Spiegandoci con la consueta delicatezza come interpretare le emozioni e i pensieri dei nostri amici, Mainardi lamenta come siano spesso considerati oggetti non meritevoli d'un rispetto adeguato alla loro intelligenza e sensibilità. In un capitolo molto interessante sulla genesi dell'aggressività canina, cerca di far capire come sia importante limitare l'uso del guinzaglio e lasciare gli animali liberi. Hanno bisogno di imparare a interagire con gli altri, in modo che non diventino inutilmente aggressivi, e hanno bisogno di conoscere il territorio in cui vivono. Da cuccioli, inoltre, dovrebbero essere lasciati con madre e fratello almeno fino ai 2 mesi e mezzo. Cani sani e ben educati, secondo l'etologo, dovrebbero poter entrare dappertutto. Fa l'esempio positivo dei cani randagi di Ischia, accolti e graditi da tutti, seguiti dall'ASL locale. Nutriti e coccolati dagli abitanti dell'isola, hanno acquisito un comportamento estremamente civile e dignitoso, perché i cani sono dei veri specialisti della vita pacifica di gruppo, come del resto i loro progenitori lupi. Segue il triste esempio di animali incitati alla violenza fin da cuccioli da padroni aggressivi che li amano far combattere. O il problema di quando un randagio nasce fuori dalla presenza umana e dunque non subisce l'imprinting sulla nostra specie, facendo sì che nei confronti dell'essere umano si comporti come se quest'ultimo fosse un qualsiasi concorrente per qualche risorsa o una preda. Il libro, come sempre accade con Mainardi, è anche l'occasione per capire qualcosa di più su di noi, sugli altri animali e sulla natura in generale. Mainardi parla degli studi in cui si cerca di capire se i cani provino il senso di colpa, delle ricerche che mostrano che si può leggere la coda del cane. Se vira leggermente a destra, il cane si sta avvicinando bonariamente a qualcosa o qualcuno. Se vira a sinistra, indica la presenza di una componente di paura. Analizza il lessico familiare canino, fatto non solo di parole, ma anche di gesti, sguardi ed espressioni del viso. Osserva come non sia vero che gli animali non umani vivono solo nel presente. Spiega che i cani, come gli uomini o le chioccioline, sono capaci di spegnere gli istinti. I migliori amici dell'uomo si sanno inibire, sanno ragionare, trovare soluzioni ai problemi, amare il loro padrone di un amore che non conosce divorzio. E Mainardi si diletta anche, con piglio scientifico e leggero, a spiegare perché spesso i padroni assomigliano ai loro cani e viceversa. E poi ci racconta del compagno di Byron, di quello di Freud o di Lorenz. Sua figlia Luisa ha poi scritto in appendice una guida all'allevamento gentile del cane. A me i cani, spiega, piace scoprirli come persone piene di sfaccettature, persone non umane, ma ugualmente complesse e interessanti. Ciò che l'etologo intende fare in questo libro è incoraggiare il lettore a osservare il proprio cane con occhi ingenui, liberi cioè da pregiudizi, frasi fatte e indottrinamenti vari. Si scoprirà così un altro cane, quello vero. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Fate largo, arriva l'amico cane di Laura Ricci sulla Domenica del Sole 24 Ore in edicola oggi, dedicato al libro di Danilo Mainardi intitolato Il cane, secondo me, edito da Cairo. Il 17 marzo 1861 nacque il Regno d'Italia ed è il giorno in cui il nostro paese celebra l'unità nazionale. Il 2011 sarà l'anno delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'unificazione del nostro paese. Tuttavia, sono ormai da tempo numerosissime le discussioni, le prese di posizione e ovviamente anche le polemiche attorno a questo anniversario. Massimo Gramellini, celebre firma della Stampa, in un suo editoriale, parla dell'Italia schizofrenica. Nel sovrano disinteresse del popolo sovrano e della maggioranza più che assoluta dei suoi rappresentanti, comincia la sarabanda delle celebrazioni per i 150 anni dell'Italia unita. Comincia a Reggio Emilia, con l'omaggio al tricolore da parte del Presidente della Repubblica, uno dei pochi a crederci davvero, e non solo per dovere d'ufficio. Dopo il rito della bandiera, che di anni ne ha oltre 200, arriveranno le ricorrenze vere. Le prime elezioni nazionali del 27 gennaio 1861, riservate ad una minoranza di maschi abbienti, alfabetizzati e mangiapreti. La Chiesa aveva proibito le urne ai cattolici. Il più votato risultò Cavour, con 620 voti. L'assedio di Gaeta, con cui il 13 febbraio si archiviò a suon di bombe la resistenza dei Borboni, appena in tempo per non sciupare la seduta delle Camere riunite nel cortile torinese di Palazzo Carignano, quando il capo dello Stato, che allora era il re, rivolse ai parlamentari la prima di una lunga e mai terminata serie di prediche inutili. «Signori deputati, signori senatori, l'Italia confida nella virtù e nella sapienza vostra». Fino a quel 17 marzo, una domenica, in cui i pochi italiani che sapevano leggere appresero dalla Gazzetta Ufficiale che il Parlamento aveva proclamato il Regno d'Italia con il voto contrario di due soli senatori, dei quali taceremo i nomi, per non togliere a Bossi il piacere di scoprirli e di andare a deporre sulle loro tombe una decalcomania del sole delle Alpi. Qualche malizioso potrebbe chiedere di protrarre il gioco delle ricorrenze al 18 aprile 1861, 150esimo anniversario della prima rissa parlamentare, e mica fra Cicchitti e Bocchini, fra Garibaldi e Cavour, che sarebbe poi morto 4 mesi dopo, lasciando l'Italia più o meno dove sta adesso, nei pasticci. Ci attende un anno di inni, parate, discorsi e baruffe sulla patria, ma nessuno può dire se alla fine del 2011 gli italiani si innamoreranno di lei o se ne saranno definitivamente nauseati. Probabilmente continueranno a trattarla come ora, con amore comparativo, parlandone bene solo quando sono all'estero. L'italiano non considera l'Italia la sua patria, così come, sia chiaro, non considererebbe patria la Padania, la Borgogna o qualsiasi altra comunità più vasta della sua famiglia, del suo quartiere o forse della sua città che gli chiedesse di emettere fattura fiscale. Per un italiano, ciò che appartiene a tutti, per il semplice fatto di non appartenere soltanto a lui, non appartiene a nessuno. Ci sono voluti 14 secoli, dalla fine dell'Impero Romano all'unità, per cucirci addosso questo atteggiamento mentale. Ne mancano quindi ancora 12 e mezzo per rimetterci in pari. Ma non è onesto affermare che rispetto al centenario del 1961 lo spirito di patria si sia affievolito. Il divario fra settentrionali e meridionali era molto più aspro 50 anni fa e si manifestava nelle forme di una diffidenza razzista che non di rado trascendeva nell'ostilità. La differenza è che allora non c'erano né a nord né a sud partiti di massa disposti a cavalcarla. Ciò che l'emigrazione, i matrimoni e la TV hanno unito in questi decenni è stato in parte disfatto dalla politica, che ha sistematicamente eroso i simboli dell'unità nazionale, dalla Costituzione ai miti fondativi, esagerati ma autentici come tutti i miti, del Risorgimento e della Resistenza, Come nel mondo capovolto di Alice, la patria ha cessato di essere una parola di destra e si è spostata verso il centro, se non proprio a sinistra. Ma chiunque, a destra e a sinistra, intenda oggi fondare un partito, sostituisce le ideologie con le micro appartenenze territoriali e vede quindi nella patria tutta intera un inciampo. Sono i politici, non i cittadini, ad aver rimosso la ricorrenza del 2011. Infatti, nel dibattito «Elezioni a marzo sì, elezioni a marzo no», che li appassiona da mesi, nessuno dei leader ha neanche minimamente pensato che sovrapporre i veleni di una campagna elettorale alle celebrazioni del 150enario sarebbe come invitare una banda di bulli muniti di pennello e vernice alla festa di compleanno della scuola. Nordisti e sudisti che insultano l'Italia sulle piazze d'Italia, mentre il capo dello Stato scopre targhe commemorative e omaggia bandiere risorgimentali. Fra le tante schizofrenie di questo beneamato paese, che almeno questa ci venga risparmiata. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale Italia 150esimo, via alla festa schizofrenica, di Massimo Gramellini, pubblicato dalla Stampa di venerdì 7 gennaio. Sempre più spesso il mondo della politica e quello dello spettacolo vengono a scontrarsi e quando accade il vortice è inarrestabile. Nessuno sconto quindi nemmeno con la signora Sarkozy, finita nell'occhio del ciclone per la questione di Cesare Battisti. Sentiamo da Maria Laura Rodotà, celebre giornalista, alcune riflessioni. La commissione tra politica e spettacolo, tra vanità e tragedie, tra attivismo e rotocalco, ha prodotto notizie surreali, una per tutte, dalle agenzie. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Giancarlo Galan, si schiera contro Carla Bruni. Verrebbe da ridere a pensare ai rispettivi predecessori in epoche meno meticce. L'onorevole Mariano Rumor attacca duramente l'indossatrice Capucine? No, qualche decennio fa non sarebbe successo e i grandi democristiani attaccavano in genere con criterio. Poi non viene da ridere affatto, nonostante gli sforzi di Galan, che sempre a mezzo agenzie dà a Bruni dell'impunita. Ci sono troppe vite e troppe vittime in gioco. Poi, qualche ammiratore di Carla Bruni Sarkozy potrebbe obiettare che lei è una ex modella, ma soprattutto la prima dama di Francia. E si sa che prime dame, regine e amanti influenti hanno spesso avuto un ruolo garantista. Poi, qualcuno inorridito dal potenziale pasticcio internazionale e altro, potrebbe controobiettare che le presunte pressioni di Carla Bruni sul presidente brasiliano Lula perché non estradasse Cesare Battisti parrebbero poco romantiche e come minimo irrituali. Ma su questo è già intervenuto un altro nostro ministro, Ignazio La Russa, che a Sky TG24 ha spiegato: «Quel che so io è che Bruni ha sempre negato. Se fosse intervenuta non avrei nessuna esitazione a censurarla». Alcuni hanno provato a immaginare La Russa che censura Carla Bruni, preoccupandosi per La Russa. Tra l'altro, la bellissima e distante Bruni è da poco arrivata prima, nella categoria spettacolo e cultura, in un sondaggio in cui si indicavano le personalità francesi più irritanti. Prima assoluta tra i politici e tutti gli altri è l'ex rivale di suo marito Ségolène Royal col 73% dei non consensi, Sarkozy col 63% è quarto. Però, contemporaneamente, Bruni e coniuge sono stati eletti in un altro sondaggio coppia preferita dai francesi. E mentre su giornali e siti italiani scoppiava un affair Carla, dopo le accuse di Bruno Berardi, sui siti di pettegolezzi del resto del mondo si analizzava il desiderio di maternità della stessa. Carla Bruni ha un bambino, Aurelien, figlio del figlio di un filosofo con cui Bruni aveva una relazione prima di mettersi con suo figlio. Questo figlio, figlio del filosofo padre del di lei figlio, era sposato con la figlia di un altro filosofo, Bernard Henri Lévy. Henri Lévy ha scritto al presidente Lula in difesa di Battisti. Sua figlia Justine Lévy ha scritto un romanzo a chiave contro Carla Bruni. Carla Bruni, un mese fa, durante un viaggio ufficiale in India, era entrata in un tempio di Agra tradizionalmente visitato da fedeli in cerca di fertilità e aveva fatto sapere di avere pregato per avere un altro figlio. Il monaco a capo del tempio aveva comunicato al Times of India di aver trovato la premier dame simpatica, affettuosa e molto dedita alla famiglia. Intanto, commentatori meno benevoli ipotizzano una caccia al figlio per motivi elettorali. L'anno prossimo ci saranno le elezioni presidenziali. Un bambino, il secondo per Bruni, il quarto per Sarkozy, che è già nonno, sarebbe un grande colpo propagandistico. I migliori spin doctors di Washington non saprebbero inventare nulla di meglio, ha appena scritto la rivista Galà. I peggiori spin doctors, in compenso, si potrebbero sbizzarrire con i mille controversi percorsi del personaggio Carla. Ma non è colpa sua, è colpa di Sarkozy che voleva una first lady d'effetto, a pensarci. Lei, notoriamente, non era una figura istituzionale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Tra rotocalchi e tragedie, le troppe parti di Carlà, di Maria Laura Rodotà, pubblicato da Il Corriere della Sera di giovedì 6 gennaio.